Un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Città Fujiko, sono Giuliano Carcuro e oggi sono in compagnia di Mattia Gandini, direttore artistico di Reggere Strutture, nonché danzatore, coreografo, insegnante di danza classica, composizione coreografica e danza contemporanea. Ciao Mattia! Ciao! Mattia, so che tra l'altro Reggere Strutture è proprio il creatore del Crudo Festival, quest'anno con la seconda edizione dedicato agli artisti emergenti di danza contemporanea e performing art, che si terrà dal 13 al 20 aprile 2023 al Teatro Deon qui a Bologna, in via Libia 59. E il tuo spettacolo si intitola Un solo forte al piano e andrà in scena venerdì 14 aprile. Raccontaci di più sulla tua esibizione e su come viene organizzato e strutturato un po' il Crudo Festival. Sì, allora la mia performance è un match tra me e il pianista, è un lavoro autobiografico ed è un lavoro praticamente di improvvisazione con dei task dove abbiamo dei brani comunque ben definiti e anche una coreografia strutturata, dove però raccontiamo, diciamo, la mia storia artistica e quindi passiamo da tutte le mie tappe lavorative artistiche dall'inizio, da quando sono giovanissimo fino al giorno d'oggi. E tutto questo anche con un lavoro cronologico musicale al piano con Marco Paganucci. E il lavoro dura circa 20 minuti, quindi invito tutte le persone a venirlo a vedere. Ricordo che la sera prima abbiamo un ospite speciale internazionale, che è Marco Chevrier, che porta quintetto. Marco Chevrier farà un lavoro molto interessante perché sarà un lavoro interattivo col pubblico, e quindi anche questo secondo me potrebbe essere un'esperienza molto particolare. Certo, assolutamente. Benissimo, quindi ricordiamo ancora una volta l'esibizione di Mattia il 14 aprile 2023 e per ulteriori informazioni invitiamo tutti gli ascoltatori a visitare la rassegna del Crudo Festival su spaziocrudo.com. Volevo solo ricordare che poi le serate successive ci saranno moltissimi artisti anche del territorio di Bologna, e quindi questa è anche un'opportunità per tutti i coreografi del territorio del far vedere i loro lavori. Benissimo, allora Mattia, noi ti ringraziamo e niente, ci facciamo un grandissimo in bocca al lupo a te e a tutti i collaboratori del Crudo Festival. A presto. Grazie, a presto, grazie.